carità, stata con me, non me la sa, fammi penare, fammi impazzì, fammi danna, ma dimmi sì, muore per te, vive per te, vita da vita mia, non mi importa do passato, non mi importa e chi da vuto resta con me, con me. Resta con me, per carità, vita da vita mia. Non mi importa do passato, non mi importa e chi t'ha avuto, resta con me, con me. Capito ancora niente di noi, di quello che sei, lontano da lui, quando ritorni amante e nasci e muori accanto a me, e aggiunge che mai lontano lui potresti vivere neanche un momento, che prima di lui e dopo di lui in tanto tempo tu non hai trovato niente. Istante dopo istante noi ci ritroviamo amanti, ci scopriamo, noi ci inventiamo dei rimorsi, ci spogliamo e voliamo in alto e restiamo indietro con le nostre mani complici. Parla di te, mi parla di te, non ha capito ancora niente di noi, davvero non so se ancora potrò tenermi dentro questo bene così grande. Ci scopriamo, noi ci inventiamo dei rimorsi, ci spogliamo e voliamo in alto e restiamo indietro con le nostre mani complici. Mi parla di te. Thank you.

ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu. Al di là ci sei tu. Al di là della vita ci sei tu, al di là ci sei tu per me, la la la la, la la la la, la la la la, per me. La strada, non sai che mi porta da te, forse mai stringerò le tue mani, se tu non sarai per la via incontro a me, se l'orgoglio sarà come un muro fra noi, cancellare non potrà il passato. Tu non sai che più lunga è la strada, perché ti allontani da me sempre di più. Se qualcuno di che è finita fra noi, sbaglierà perché t'amo per sempre, ti amo. Tu non sai più lunga è la strada, perché ti allontani da me sempre di più. Se qualcuno dirà che è finita fra noi, sbaglierà perché t'amo per sempre, ti amo. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. Negli occhi la luna e le stelle, sentivi una mano sfiorare la tua pelle. E mentre impazzivi al profumo dei fiori,